cosa al computer, comunque già sono qua presente. Rilancio il mic a Roberto, Roberto girare, dai, sono ancora lì. Ehi, ok, già siamo qua quando vuoi. Ok, vediamo se il porcetto l'ha girato Claudio, ci sei Claudio? Sì, sì, sì, sto facendo, sono qua comunque, un attimino già riprendo subito. Ehi, vediamo se c'è qualcuno su 10 oltre a noi che vuole entrare, attenzione 10, sentivo questa tatta, questi colpi di portante a 9.25, non so chi sia, avanti chi vuole entrare, avete sentito? Io ho sentito, sentiamo due circa, sentiamo due qua da me. Ma no, qua arriva 9.25 abbondante. Vabbè, dai, fa niente, ma non fa niente, se vuoi entrare amico, siamo qua, con piacere, possiamo chiacchierare, non c'è problema. Sì, beh, certo, no, così Antonio, lasciala così com'è, per peggiorare la situazione, lasciala com'è adesso con il polo, così almeno riesco a sentirti. Perlomeno col QRM che c'è in questo momento riesci a superarlo, non abbondantemente, però riesco a capire quello che dici senza nessuna difficoltà. Ok, riprendi Tino, ma hai chiuso Tino, cosa hai fatto? No, no, sono in Gurix, giusto, cercando una cosa su, su internet, devo dare anche un'occhiata qua e ascoltando nel nostro tempo facendo, vai. Ok, d'accordo, dai. Allora dopo se hai voglia quando possiamo continuare, non c'è problema, siamo qua, comunque dai. Avanti Antonello. Lascia così Antonello che va bene, così va bene, anche se è basso, però ti capisco perfettamente tutto quello che dici. Ma così va benissimo, almeno per la mia posizione, dai. Poi aiuta ad andare a cercare, magari peggioreresti la situazione, invece così riesci a sentire. E quanto l'ha fatto lungo questo dipolo, Antonello? Per niente. Addirittura qua è 9, poco fa 9 e 10, 9 è un peluzzino più di 9. 0 contro 0, stamattina arrivava 9 e 5, qua adesso non arrivi nulla, a QRM, boom. Se glielo diciamo. Sì, direttivo, il dipolo direttivo. Antonè, allora da parte mia è diminuito, di 9 e 10 sei sceso a 9, un peluzzino vuoi picchiarvi più di 9, però Claudio non ti ascolta. Non so cosa hai fatto, eri perfetto poco fa che Giulio ti ascoltava bene, hai diminuito qualcosa adesso. Polo, mi stai dicendo che ha due elementi, ma si può mettere anche in verticale? Aspetta Giulio, abbiamo parlato tutti e due insieme perché Claudio non l'ascolta più come ha girato, a me è diminuito di 5 punti il segnale, adesso lo sta rimettendo come era la penultima volta. Ok, ho capito, sì, vabbè, prova, magari riesci a ascoltare anche Claudio o Antonio, prova, dai. Sì, vabbè, perché non ho capito, lui ha parlato di due elementi, questo di polo, vabbè, lo sappiamo che ogni polo ha due elementi, due braccia, però queste braccia vuole capire come sono, se sono anche montabili su in verticale, non lo so, perché lui ha parlato di braccia rigide, evidentemente sono in alluminio o qualcosa del genere. È una V invertita, è montata in verticale. Ah ecco, ho capito, una V invertita, e beh quello allora il discorso è diverso, quello dipende anche dall'apertura che gli dai da braccio a braccio, la parte bassa, no? Quello è importante anche quello. E vabbè, comunque sempre di polo si tratta, quella lì non si può nemmeno considerare omnidirezionale, perché cosa vuoi pretendere, più di tanto non credo che possa dare, dai, magari in una certa direzione sì, perché no, ma in altre no, dove guadagni ma dove perdi anche molto, dai, vabbè. Sì, adesso sei tornato tu quasi 9 e 10, vediamo se Claudio ti ascolta. Non devi toccare più, Santiago 9. No, non è questione di oscillare Antonio, è questione di posizione. Infatti come diceva Giulio, sono convintissimo che hai chiuso troppo i bracci, alle proprio i 45 gradi netti, perché altrimenti non irradia quarantenna. No, Claudio, sono già 45 gradi, che sono i morsetti, ogni braccio ha la sua posizione, qui c'è solamente un braccio in cui regolare per dare le stazionate, basta. È già così pre-impostata, pre-saldata tutto, deve arrivare con i buchi sui. Da lì non può fare nessuna modifica. Una modifica solo a un braccio, dovrebbe essere il filo caldo, dove allunghi o diminuisci il braccio per la stazionare, tutto lì. Ah, bene, bene. No, pensavo fosse uno di quelli autocostruiti che l'hai comprato, capito? Santiago, quasi 9 arrivi. Se ti ascolta Giulio, per me lascialo così, perché se hai Sassari che sta funzionando, io sono fuori Sassari, quindi problemi non ce ne sono. Giulio, lo senti tu, Antonello? Sì, lo sento. Adesso in questo portale ha peggiorato un pochino, però lo sento ancora, no, non c'è problema. Se non aumenta il QRM va bene. Lascia pure così, Antonello, così possiamo sentire tutti, perché se no, se metti come la prima, ti sentivo meglio io, però non ti sentiva più Claudio, per cui va bene così, lascialo com'è, così possiamo parlare tutti quanti. Avanti Antonio. No, io non ci sono mai stato a Serra Secca, io ero a Carbonazzi, adesso sono a Serra Secca Alta, sono andato su praticamente di un paio di chilometri, esattamente in direzione dove c'è la Torre dell'Acqua, capito? Ah, scusami, io so che abbiamo Serra Secca, non sulle palattine, via Milano, sì. No, Monte Bianchino, zona Monte Bianchino praticamente, nella vallata di Monte Bianchino. Uscendo liscio tu? Assolutamente sì, guarda, 5 volte mi durate, 63 e abbinate 2024, guarda, tutto qui. Allora, figurati se attacchi, certo, sei quasi 9-10 tu, così, pulito. È 9 qua, Roberto, ce l'hai più davanti, lo vedi, io non lo vedo, però è Santiago 9, quindi penso che vada bene, dai, ottimo, vai Giulio. Ok, figurati, tu 5 vatti, Antonio, io sto usando un baracchino da 3 vatti e mezzo e va bene lo stesso, no? Non c'è problema, quando le antenne sono piazzate a dovere vanno più che bene, no? Va benissimo, dai, comunque, continuo ad ascoltarti tranquillamente, no? Non ho difficoltà, speriamo che non aumenti il QRM, ma suppongo che anche se dovesse aumentare un tantino dovresti passarlo lo stesso, dai, va bene così. Avanti, Robert. Ehi, aspetta, lasciamo un attimino di bianco se c'è qualcuno che vuole entrare, attenzione 10, già Franco ho sentito se perché ci entrava al pomeriggio. Avanti che vuole entrare. Ecco. Avanti il Brecco, e buonasera anche a lei, signore. Ciao Robert, buonasera, un profeta dalle coordinate della stazione, buonasera a tutti. Ciao Gianni Lubrofetta. Ciao Lubrofetta, fatemi il biglietto alla stazione. È tutto già arrivato. Meno male di chiavi tu. Non lo volevo dire, adesso mi hai sgamato, dai. Che miseria, me lo fai fatti mi. Gappa, ciao, buonasera, ben ascoltato. Quasi 9-10, segnale per te, sempre fortissimo. Porca miseria. Ci mette una manta, va lì, sfascia quanto c'è. 9 più 10 mi sta arrivando. Avanti, Giulio. Ok, beh, la posizione lì è veramente magistrale, è veramente alla grande. Guai se dovesse mettere un'antenna più seria di quella che ha. Considera che ha questa boomerang o cosa si chiama, per cui dovendo mettere un'antenna seria sono segnaloni veramente un po' dappertutto, anche qui da me arriva abbastanza forte, non è che arriva piano, arriva oltre il 9, un 9,5 pieno, per cui va benissimo così, non c'è problema. Avanti, Gianni Rubrofetta, c'è Antonello da Barracuna da Ussi, vediamo un po' se ti sente lui anche, vai Gianni. Ehi, Aleia, non so se mi copia Antonello Barracuda, buonasera, mi ascolti? Santiago 7, Radio Super 5 da parte mia, dimmi tu, e poi io per il te. Anche tu dai, Santiago 7, oscillante con leggeri picchi positivi e Radio 4, non lo so, la sento un po' bassina, può darsi che sia io che magari non... Insomma, l'ascolto che faccio io, comunque riesco a accoppiarti benissimo, dai, avanti. Va bene, no, sto dicendo liscio, però se ti sento una vecchia scarica, mi dico che mi fai più che altro, ma comunque devo che migliorare il tutto, dai, già mi ascoltano bello, mi ascoltate il tutto, dai, per essere più solo. Benissimo, dopo la posizione, ma adesso proviamo a cambiare un po' di energia, vedere se cambia qualcosa. Sì, riprendo io, no, c'è il profeta, io l'ascoltavo con una radiolina portatile, l'entra in camera, con una radiolina con un'antenna di 10 cm, l'ascoltavo benissimo, una radio spettacolare, molto forte e chiara, no, qua con questo vabbè arriva a 9:20, tranquillo, con i picchi li supera pure, arriva anche una meraviglia, considerando che è in un fosso rispetto a me, strano. Mattino ancora c'è, Tino? Sì, sono qua. Mi serve un altro MC60, aiutami. Cercamelo. Aspetta, un senso, ti serve? Un altro MC60. io dai, già puoi procurare tu. Guarda se ce n'è qualcuno su internet a Tracco Baratto. Io non ne ho internet. Sto bloccando una cosa, io ho preso il computer nuovo, lo sto rifacendo come preso un po' come l'avevo un altro, vai. Faccio un po' di tempo. Io, guarda se me ne trovate qualcuno, perché quello è togliere questo 50 a mettere balle e mettere l'altro 60, se no lottare sempre con Michi viene a manetta con l'altra radio, vai. Ok, vai Rubrofetta, fai girare per Giulio. Sì, ciao Gianni, che non ti ho salutato, scusa, ero in Querrix. No problem, tranquillo Tino, ben sentito, un po' di tempo anche io che ho lasciato il mic a preso al chiodo, come si suol dire. Uiuia. Vabbè dai, avanti giù. Ok, vabbè, purtroppo ognuno muda quando ha il tempo, e poi Tino si è fatto le vacanze con il camper, ha fatto bene, bravo Tino, è così che si vive. Bisogna andare avanti con la vita moderna. Bravo Tino. Ho tolto i soldi da sotto il mattone che non ci sono più, capito, quindi vabbè, comunque già mi sono divertito. Hai fatto bene, io sono contento per te, figurati, ci mancherebbe. Ok, d'accordo, avanti Roberto. A proposito di soldi, non so se sapete la novità di questi balordi dalle banche, l'ultima. Allora, sino al 31-12 tu puoi acquistare sino a 2.000 euro in contanti. Dal 1 gennaio non puoi superare i 999,99 euro, devi fare per forza un pagamento in assegno, in bonifico, tracciabile o carta di credito. Se tu devi comprare un televisore da 1.500 euro, per dire, o ti fai fare, ti dai un acconto per dire di 600-700 euro, e poi a saldo gli dai gli altri in contanti, se no non puoi più acquistare questi balordi dalle banche, in modo che la gente sia costretta a utilizzare non più la carta moneta, ma i soldi che c'hanno loro, ti possono bloccare il conto, fare quello che vogliono e una facciaduia, non so se lo sapevate. Sì, ma sai cos'è, questi delle banche sono dei vecchini, perché quando si presenta un cliente lì sono capaci di offrirti qualsiasi cosa pur di farti aprire il conto lì. Poi cosa succede? Una volta che hai aperto il conto, sono loro il padrone, diventano loro, tra virgolette, padroni dei tuoi soldi, e devi tu sottostare a tutte le regole di questa gente. Ma non è possibile, ragazzi, perché uno se uno ha necessità di fare un acquisto, se io mi voglio comprare per dire una macchina in contanti, non posso prelevare i soldi, perché? Per il semplice motivo perché c'è questa legge, questa regola qua. Ma non è possibile, guarda, è una cosa assurda, ma dipende soprattutto dal governo che mette certe regole, Roberto. Ma forse non avete ancora capito che i governi dipendono dai banchieri. Ci sono tre facce della medaglia, ci sono i banchieri, i petrolieri e quelli delle industrie farmaceutiche, collegati tutti insieme, perché l'industria farmaceutica è comandata da un banchiere, il petroliere è un banchiere, è tutta una catena che fa sempre capo a quelli che c'hanno i soldi, i cosiddetti banchieri. Per cui loro stanno facendo in modo che tu sei obbligato a utilizzare i soldi che c'hai in banca, i soldi tuoi tra l'altro, e una mattina si svegliano, scacciano un pulsante, ma oggi tu non ne tocchi più e bisogna fare tipo mercato nero della guerra. Per cui, detto da gente che lo sa, se qualcuno c'ha qualche spicciolo in banca, toglietevelo e mettetevelo da parte in altre parti, e si continuerà a utilizzare la carta moneta, perché sennò questi, se vogliono, per qualunque legge che si fanno loro, ti bloccano il conto. Vabbè. Ecco, l'altro giorno mi ha detto devo andare in banca a fare un'operazione importante, e quello ho fatto mio. Perché a me mi hanno mandato la comunicazione scritta, capito? Essendoci un po' di soldi, mi hanno mandato la comunicazione scritta alla Banca Intesa. Io sono andato subito, ho messo le cose in chiaro, gli ho detto sì o no, no. Se io non ho, gli ho detto immediatamente. C'è quello che mi serve, i soldi sono i miei e faccio quello che voglio. Se voi disgraziatamente o bloccate il conto o mi fate qualche manovra strana, io ne tolgo tutto. Il direttore mi ha detto, signor Matteo, non si preoccupi, vado avanti come sta andando, qualsiasi problema l'avvisiamo direttamente e personalmente. Ah, l'ha giudito, allora a te Gaghisotto. Che chiaro, ma non è proprio così, perché lui è un direttore, ma sopra di lui ce ne sono altri 100 di direttori, per cui bisogna stare ben attenti a queste cose. Ho sentito qualcuno, avanti, che voleva entrare? Era un americano, era, stai attento. No, tranquillo, non c'era problema. È già libera, diciamo che è in cassaforte, però le operazioni principali che tu fai, come stavi dicendo, c'è questa cosa, bisogna stare molto attenti. Però io gli ho messo in chiaro le cose. Se dovesse succedere qualcosa, io vado fuori, non è che mi posso portare i soldi appresso, eccetera, o fare degli acquisti, come a volte capita che qua c'è sempre roba da comprare e da fare, e mi dovessero mandare indietro il pagamento, sono cacchi loro, so. L'ho già avvisato, ho detto state attenti perché vi metto veramente nei guai. Poi la seconda cosa, ho detto tolgo tutto e vado da un'altra parte. Però sei sempre collegato alla banca, claro. Allora, noi parliamo di Green Pass, ammettiamo che facciano la legge che non c'entra niente, però dicono, beh, oggi tutti quelli che non hanno il Green Pass li blocchiamo il conto, per fare un esempio fesso, ma possono fare qualunque legge che vogliono loro. Tu vai di natura e non li puoi toccare, come è successo, è già successo in altre nazioni. Se tu vai in nazioni dittatoriali tipo Cina, Russia, cose del genere, schiacciano un pulsantino, da oggi il signor Claudio non può toccare i soldi propri e tu non vuoi fare nulla. Se invece i soldi ce li hai tu da parte, i contanti, è diverso la musica. Se tutti si mettessero in testa di utilizzare i contanti e mandarceli a cagare a queste delle banche, che sono una vergogna, che non è possibile che io incasso 50 euro nel lavoro mio, incasso 50 euro, ma del conto ne ho incassato 48 euro, 2 euro se le prendono loro tra giri e cose varie. Poi quei 48 euro vado a comprare, passano a un altro e ne tolgo altri 2 euro. E così via, alla fine dopo 6-7 passaggi, dai 50 euro iniziali ne hai 40 o 30. Non funziona così, non c'è niente da fare, funziona così, vabbè, da una parte libera ce l'ho sempre, però non è che puoi girare con tutti quei soldi appresso, non te l'ho già spiegato, quindi sei per forza costretto a lasciarli lì, cosa fai? Alla fin fine ci tocca rimanere dentro casa perché c'è la cassaforte piena di soldi, dicono fesseria, no? Non è che sia una cosa, però cioè, non si può, dai, assolutamente. Io spero che mettano a posto le cose, però il direttore me l'ha già detto, appunto, questo che hai detto tu, me l'ha già spiegato lui. È ancora un po' in alto mare la cosa, però penso che avvenga, penso che avvenga. Vai Giulio. Vedi un po', 1, 2, 3, trova, se va bene così. Una canonata, sì. 9 più 15, tendente a 9 più 20 qua, una bomba. 1 per 9, sì, adesso Antonio. Sarà appena forse un pochettino alto, aspetta. Abbasso un po', ecco qua. 20 parte, dai, modulati così. Aspetta un secondo, e vediamo questa minestra, così, aspetta. Le prestazionarie, ecco qua. Perfetto, passo. Cosa stiamo con 140? No, con la 140. Il Midland è il DB131, fa volare, basta. E l'MD più 4, è il dipolo. Quasi 9 più 10, sì, Antonio. Vediamo, Giulio. Santoro 7 è qua, è una radio 5 perfetta, Antonio. Va benissimo, no, non c'è problema, lascia così che va benissimo veramente, ottimo, ottimo veramente. Anche in caso di aumento di QRM non ci dovrebbero essere assolutamente problemi. Sì, tornando al discorso banca, Claudio e Roberto, questa è una cosa che ho avuto io già due volte, non una volta, due volte, la prima volta alcuni anni fa. E la seconda volta, la prima volta con le poste proprio, erano le poste di via Algheno, che non mi volevo andare subito per comprare la macchina, che allora era una Ford, la Ford Escort. Poi la Ford Fiesta. Poi questa volta, due anni fa, lo stesso discorso, questa volta con la banca però. Non c'è stato problema perché appunto proprio dietro queste minacce, come hai detto tu, se non chiudo il conto non se ne parla più, mi trasferisco in un'altra banca. E allora abbiamo fatto in questo modo, 25.000 euro per comprare la Ford EcoSport Ford, un bonifico direttamente ho fatto e non se ne è parlato più e andava bene così. No, non è che ho preso il soldi in contanto, perché intanto non me ne facevo niente, però ho potuto fare un bonifico direttamente alla ditta della macchina, eccetera eccetera, cioè della cifra giusta. Comunque io avevo preservato una cifra intorno ai 25.000 euro proprio per comprare l'ultima macchina, questa risale a 2 anni fa. Oh, Claudio, sai che c'è un profeta, Gianni, avanti. Cosa dire? Vedo un po' di nubi scure all'orizzonte, vabbè. Queste qua, insomma, sono dei grandi intrallazioni, come si dice. No, volevo dire come ti arriva la barracuda. Prova la barracuda per Gianni. Barracuda ci sei? Sì, sto arrivando. Qua, allora, qua il segnale è aumentato da 7 a 9,10. Figurati. Tu, Robert, sei sul più del più 30, mentre Claudio è leggermente di meno, Giulio è intorno ai 9,10, 9,15. No, già arrivati tutti forti, dai. E io, guarda anche a me, geloso io. 9,25 ti, più o meno sei molto vicino al più del più 30, dai. Bell'attore, sono contento. Il più piccolino sono io, così va. Già. No, tu sei in prossimità del più 30, dai. Sono veramente delle piccolissime differenze, dai. Comunque il 9 l'ho sorpassato tutto abbondantemente. Va bene, vediamo il progetto di Claudio, com'è l'avvestimento qua. Stamattina sta cucinando questo porcetto, Dio mio santo, quanto ne sta cucinando? Oh, qualche accidente, scalda questa valvola, eh. Perché si era brumagnato, stamattina se l'hanno mangiata, adesso un altro, questo, il fratello. Dio mio, viva la dieta. Claudio ha cambiato casa, però ha cambiato anche il modo di mangiare, ogni dì entra l'allera, così è qua. Nicola Rossi, bella isso, non lo sapevo, vabbè, già può capitare, forse anche l'entusiasmo ti viene fame, così è. No, siccome ha cambiato casa, ci sono gli ospiti che ogni tanto li deve far vedere la casa nuova, e con la scusa c'è la rossita, poi cambiano ogni tanto genere, per adesso sono con la carne, poi vanno col pesce, perché poi ci devono rintornare, quelli che hanno mangiato la carne devono mangiare il pesce, per cui si raddoppiano i giri. E beh, là ci sei nascosto, sì. Vediamo un pochettino, Giulio, di nuovo a te. Ok, vabbè, bello parlare di porcetto, è bello. Aspetta che qua abbasso, se non mi fischia, ecco qua, se non mi fischiava che stavo ascoltando un altro apparecchio. Va bene, così va bene. Sì, lascia così, Antonio, che ti sento molto bene adesso. Santiago 7 è modulati, arrivi anche a 9, Santiago 9 è modulati, per cui va più che bene, non c'è problema. Ottimo col 131, veramente. Quello va a volare, vero Antonio? È giù, sì, va a volare. Solo che mi sa che gli aggiungo quella ventolina, dai, di computer sopra, perché scalda, scalda abbastanza, dunque vediamo una piccola raffreddata portata. registrato il break. Sto certo che scalda, lo credo, è la valvola, è il buio che scalda. Tu per quello, nel frattempo che stai ascoltando, lo staccalo, poi quando ti richiamiamo lo riattacchi e così lo fai scaldare un po' di meno. C'è stato un break avanti? Ciao Claudio, ben sentito mio. Adesso Barracuda probabilmente a te ti arriva a bomba 9.40, 9.50, che ha sistemato un po' l'antenna, visto che siete abbastanza vicini, ti creperà lo splitter, ti ripasso a Barracuda così ti dai un controllo di segnale, poi vado a girare Giulio e compagnia. Ah, guarda, la verità, io a Muros, credimi, che lo sento bassissimo, ma la colpa è la mia, o perlomeno la zona in cui mi trovo, ma comunque riesco tranquillamente a tirarlo fuori, è la verità, non so se mi sente. Buonasera, Muros, qui Ossi, centro storico. Sì, QSL, ciao Antonello, buonasera, presidente. Sì, anche tu sei un po' passivo, anche la zona è un po' sfavorevole, la tua, rispetto a me, sì, sì, Santiago 5, Radio 4, qua Muros, ti ascolto, Antonello, e tappa, va bene, sì, sì, sì, sì, dipende dalla zona, dai, non c'è niente da fare. Adesso appena troverò qualche tubo migliore, se la metto sul tetto, la possibilità già c'è. Volevo chiedere, ma le valvole delle valvole per le 509 si trovano ancora, sì? Sì, già li trovi, fuori già li trovi, qua non di certo, ma tu ma fuori già li trovi, 509 e anche 519 mi sembra che va bene per quel legnare lì o 43. Sì, sì, c'era anche la 519, è vero. Ah, perfetto, benissimo. Usiamolo, aspetta che la tasso un po' come va, aspettate che si possono regolare. Faccio così, dai. Dai, facciamo così, dai. Proprio 20-20 modulati, dai, ho abbassato un po' la potenza. Per me va anche sempre bene, quindi va bene anche per me, non c'è problema, anche se ha abbassato un pochino. Ciao Claudio, riprendi e fai girare, c'è Roberto anche, c'è anche Tino e Claudio, avanti con Claudio di Mulos. Aspetta che c'è anche Gianni Obrofetta. Gianni, per i saluti a Claudio di Muros. Ciao Chiodo, ben sentito, buonasera. Santiago 8, Radio 5, dalle mie coordinate, buonasera. Sì, QSL, ciao Gianni, buonasera, ben sentito, sì, e poi arriva anche a te. Sì, mi arrivi tu, mi arrivi, Santiago 6:30, Radio 5, qua Muros, sì, ti ascolto bene, hai quasi il segnale di Giulio, e quindi... Bene, Meda, bene, Meda. La mia piccola macchina a vapore. Va bene, dai, va benissimo, va benissimo. Sì, tu sei 8, dai. Ti ascolto bene. Claudio sta girando il porcetto, per cui boh, rilancio la palla a Giulio, dai. Ok, io me lo faccio rimbalzare per tiro, così almeno. Sì, io sto usando Claudio di Lugno, sto usando un baracchino 3,5, un vintage, Cobra 139, quello della stazione base, bruttissimo, che non mi è mai piaciuto. Comunque, sta funzionando, oggi ho voluto, beh, felice che lo metto in funzione, questo non dice mai di no, va sempre molto bene. Ce l'avrò senza esagerare 30 anni più o meno, dai, ma era sempre dalla parte, ma ogni tanto già lo metto in funzione. Sempre cosa la uso, Claudio? Lo uso per ascoltare, per regolarmi la radio, mi metto le cuffie, attacco quello e ascolto appunto quando uso il K, è tutto lì, Claudio. Va bene, dai, vediamo un po' Tino se riprende, vai Tino. Ti prendo io, Claudio di Muros, tu ti stai aiutando o sei pulito? Ah, ma no, mi sta aiutando, per 40 watt sto usando, 40 watt e 6 di radio, ne ho 5,5 fai, e io sta andando bene, questa è l'unica stazione base, sto usando, ce l'avevo sullo scaffale, nella trattata, questo, e l'ho tirato fuori, oggi, perché ieri stavo usando quella militare, no, quella classica, la PRC 320, la KF, adesso me la sono cambiata con questa. segnali. Ah, sto facendo con 40 watt addirittura. E allora, se si liscio liscio, sinceramente io non riuscirò mai a tirarti fuori dalla zona lì, comunque. L'aiutino già va sempre comodo, vai, vediamo un po', piano piano. Rimettiamo in moto la situazione. Avanti Giulio. Scusate un attimino. Roberto, mi guardi, mi ascolti la modulazione per cortesia. Hai migliorato anche il segnale, super di 920, tiro la radio perfetta, pulita e chiara. È in accordo giusto allora. Sinceramente ti ascoltate meglio di prima, non so cosa hai fatto. No, vabbè, adesso sto utilizzando la KR5005, pilotato con un valvolare. La radio è migliorato di qualità, molto più naturale, era bella anche prima, ma questa mi piace di più. Il segnale è salito da 9,15, si è salito su per i 9,20. C'è Claudio da Muro, se non sbaglio. Claudio, ciao, buonasera. Andare. No, volevo sapere solo se si stava comportando bene ancora e se ha migliorato la radio, come ho chiesto a Roberto, perché ho fatto delle regolazioni. Ok, va bene, grazie ancora. Vai Gianni, il profeta, c'è Antonello Barracuda, vediamo lui se ti ha sentito più forte. Va bene. Qua non lo so se lo ascolto Antonello. Antonello? Sì, dimmi, scusami. Mi dai un rapporto per cortesia, che ho cambiato radio e insomma volevo vedere un pochino il cambiamento dalla prima all'ultima. Allora qui a Rossi, Roma Centro Storico, la zona Fognao, Santiago Longo in pieno, Radio 5 da partita. E allora già va bene. 9 più 25 qui. Vabbè, giù, ma la stiamo in conto, siamo per passi. Ma la mangia conta, però, la mazza. Aspetta, non so se ce l'hai accordata ancora, aspetta. No, di più non va, dai. È lui. Faccio segnale che arrivi a Giulio, mi arrivi qua. Liscio mi arrivi 9.10, quando attacchi mi arrivi 9.25. Facci piccolo. Ti ricordo che sono molto in alto, però non ti vedo, ma la ricezione di questa antenna è favola, veramente. Mentre con la mantova mi arrivi 9.20, con questa mi arrivi 9.25. Va bene. Non lo so se magari aumentando, non le ho fatte queste prove, vediamo se aumenta qualcosa. Ha cambiato qualcosa? 9.27 sul fischio. Dopo cambio, Sì, vabbè, da 25 a 27 a 20, ma cosa già, come dice Giulio, ma cosa... No, non è un problema, l'importante è che ci ascoltiamo tutti, dai. Già va bene. Ciao Claudio Di Muro, buonasera, ben ascoltato. Sempre una bomba, mi arrivi qua. Io non so se mi stai ascoltando, perché sto uscendo con l'antenna dentro casa. Sì, Questelle, ciao Claudio, buonasera, ben sentito. Sì, è Fotoscala lo smister, quello parli tu, Claudio, se c'hai un'antenna, vedi di quelle che vedi dentro casa, mi stai arrivando forte, anzi non forte, non fortissimo, cavolo, e sei a Fotoscala, guardati, ho visto quel film, ma è sempre così, quello parli tu, Claudio, e mi stai sfondando la lancetta, come stai, vedi? Ho detto, l'antenna dentro casa, no, sto usando sempre la J-Pol, quella verticale. Va bene, ho fatto proprio una comparazione per capire, ma è così, non c'entra affatto. Perdi 5 segnali, 5 punti S perdi fino con la mantova, figura dei due. Mentre con la J-Pol vai a 9.25 e 9.27 su quando fischi, con l'altra vai a 9.20, neanche a 9.25 arrivi. Va bene, cambio chi spetta, Giulio mi pare, fai girare tu Giulio, dai che mi sono allontanato un attimo, finalmente al forno ho finito tutto, stavo preparando la carne che c'ho gente a cena. Giulio deve essere che c'è spostato. Qual è? Mandami la foto che la guardo. Cos'è della legna, se non sbaglio? Chiami la scimmia! Il nome è J-Pol 27 MHz. Smart Tech, non te la posso fare la foto al buio, ma già te la faccio con la luce. Comunque digita Smart Tech, ok, è della Smart Tech, praticamente il concessionario per tutta Italia è Vittorio, quel tecnico che aggiusta radio, insomma, il continente. sono l'unico che ce l'ha, penso, in Sardegna, perché ne ha spedito una sola in Sardegna, l'ha mandata a me per vedere come andava, infatti gli ho fatto il video, penso ci sia anche un video su YouTube che è quello che gli ho mandato io. Comunque Smartec 27 J Paul, ok? Adesso la cerco. Claudio, la Smartec, dove l'ho comprato io questa antenna? La Smartec, sì. Io ho la J-Pol della Smartec, l'antenna verticale 7 ottavi, non 5 ottavi, 7 ottavi d'onda, 8,50 m d'antenna, però è una J-Pol, c'ha un'altra antenna a fianco da 2,50 m, capito? Un direttore a fianco, così chiamato, così c'è scritto nella scheda tecnica, e addirittura lavora col balun già incorporato 1-1, è un'antenna eccezionale, tutta d'alluminio, ma è favolosa, ha una ricezione, una trasmissione, Antonio, che è una cosa senza radiali, ma è bella robusta, è tutta in alluminio, non è in fibra, bella, costa un pacco di soldi, ma è venuta 220 euro compreso il trasporto, però è un'antenna che ne vale la pena perché lavora anche, diciamo, fa quasi tutte le bande amatoriali, quindi la HF lavora alla grande come verticale, perciò è la Smartec, se la casa è la Smartec. Esattamente, sì, io già ce l'ho presente con l'antenna, veramente, veramente bella, è molto, molto particolare, è la stessa azienda che ho anch'io, il Vitello, a V, invertito, con le braccia verso il cielo, sì, con la piastra in acciaio inox, e tutta l'azienda lì, vuole dire che sono una gentilezza incredibile, molto, molto bravo. Sì, sì, quella è una delle migliori antenne della 27. Assolutamente sì, molto, molto bella, ce l'ho presente. Volevo prenderla purtroppo, non avevo la possibilità. Allora ho puntato su questa che sto utilizzando, questo di quello. Sono degli ultimi materiali, veramente. E poi tutta italiana. Via dei materiali allucinanti, tutta un'acciaio inossidabile, le piastre che giuntano il direttore della J-Pol, c'ha tutti gli isolatori in teflon, in battirite, addirittura il connettore del PL è isolato proprio tutto in battirite, in giro, c'ha delle cose favolose, tutte le fascette, tutte in acciaio inossidabile, proprio acciaio inossidabile si vede, la grande, la bulloneria è tutta l'acciaio inossidabile, le viti, tutta, veramente una bellissima antenna. È pagata, ma comunque è una bellissima antenna. Vediamo un po' cosa è successo a Giulio. Volevo per un attimo la mancata la corrente. Stavo dicendo, prova a commutare con la Mantova a vedere la differenza di segnale, Claudio. Con questa mi stai arrivando 9 più 10 pieno. Vediamo un po' con la Mantova cosa arriva qua. Aspetta un secondo, che accendo la luce. Ok, dai, al prossimo passaggio eventualmente. Avanti Antonello, adesso mi dovreste sentire un pochino meglio rispetto a prima, Antonello. Assolutamente sì, Giulio. Santiago Radio 5. Santiago Radio 5. Sì, molto molto meglio, assolutamente sì. Sì, sì, anche io sono la punta che c'è Claudio, anche ciò che sono in due macchinini, non so. Sì, anch'io ti sento meglio, questa è un'altra ricezione, è tutta un'altra storia, no, non c'è problema. Sto andando con 10 watt, 10 watt in questo momento, anzi meno, aspetta, scusa, 8 watt in questo momento, Antonio, sto andando, va benissimo, anche tu mi stai arrivando, sentiamo 7 e mezzo, una cosa così, quasi 8, dai, è modulato anche 9, per cui va più che bene, molto molto bene, avanti il profeta. Sì, avanti Antonio. Aspetta che provo, adesso che ti ho cambiato apparato, a quello che ho fatto, andare a 5 watt originale, aspetta a vedere. Ok, prova, vediamo un po'. Adesso avevi pochi watt, quanto avevi? 15, 20 watt tu, non di più, perché poc'anzi mi arrivavi più forte, per cui si sentiva la modulazione più robusta, ma va benissimo anche così come adesso, non c'è problema. Avanti il profeta nel frattempo. Ehi. Cosa volevo dire? Sì, ho visto le fotografie dell'antenna di Claudio. Bella masera, bella alta, dai. Una bella antenna. Allora Giulio, le radio sono uguali, però questo è un altro microfono, non c'ho l'MC60 su questa radio. Ok, questa è la Mantova, guarda un po', se vuoi te lo faccio in diretta, solo che devo commutare e cambiare radio. Questa è il 430 con la Mantova, poi ti metto l'altro 430 perché ne ho due, l'altro 430 con la Gepol. Guarda questo segnale, stai attento. Sì, l'ho guardato, prima poco fa era 9 più 10, adesso si è 9 più 5, sì, in effetti guadagna molto, guadagna, e non è poco veramente, tra l'una e l'altra, per cui va benissimo così. Comunque riprova Claudia, dai, mandami anche di nuovo quella della Gepol e vediamo un po' se confermo questo segnale che tu avevo dato prima. Questo è l'altro 430 con l'MC60, mentre invece con l'altra, come ha fatto Roberto, 5 punti guadagna, non c'è niente da fare, no, ma anche in ricezione li guadagna, non solo in trasmissione. Questa è la Gepol con l'MC60, però sempre la stessa radio. Claudio, da parte mia c'è una differenza assurda, scendi di 2 dB da parte mia, con modo non c'è paragone alla Smart Tech. Di 2 dB sei sceso poco fa. No, abbiamo già fatto le prove, cioè allucinante, è un'antenna veramente spettacolare, è una 7 ottavi, Antone, vuol dire molto la 5 ottavi a 7 ottavi, è alta 2 metri e mezzo in più, è 8 metri e 50 quasi, 8 metri e 70 veramente, come lunghezza. Ed è un'antenna eccezionale, cioè c'è una ricezione, io uso questa perché non perché la Mantova, io sono affezionato alla Mantova, infatti non l'ho tolta, ho preferito collegarla all'altra radio, però c'è un abisso veramente. Questa è un'antenna che sicuramente dove abitavo prima non posso montare perché è troppo alto il palazzo, ma montandola così da terra, 5 metri da terra, proprio da terra, io ci ho lavorato da terra, senza scala, senza niente, è un'antenna eccezionale, veramente eccezionale, non lo dico perché, ma a risultati fatti è eccezionale. L'abbiamo riscontrato anche con Roberto, e 5 dB, aumenta sia in ricezione che in trasmissione. Sì, confermo qua, 5, sì, anche qua io ho registrato la differenza di 5, sì, 5 punti S, certo è così, 9 più 10 e 9 più 5, per cui è vero, no, non ci sono dubbi. È una cosa qua. E quando c'è vento oscilla molto questo radiale lungo, cioè questo stilo, oppure l'hai tirantato, cosa hai fatto? No, assolutamente, mi hanno detto il venditore non tirantare niente, l'alluminio è molto robusto, guarda, gli ultimi due elementi sono un pochino più fini, però ho visto con le raffiche di vento, di maestrale, di libeccio, eccetera, flette come la Mantova, ma il piantone sino a 5 metri rimane stabile, manco si muove l'antenna, perché come hai detto tu, essendo doppia, capito, essendo sino a 2,50 m con un fianchetto, poi c'ha due barre in acciaio inossidabile dove ci sono gli isolatori che isola da un elemento all'altro, chiaramente l'antenna è molto più robusta, quindi non si muove assolutamente, solo gli ultimi elementi, praticamente gli ultimi 2,50 m un po' flettono, ma flettono talmente poco che va bene, insomma, come la Mantova, dai, l'ultimo pezzettino della Mantova. Ho capito, molto bene, dai. Evidentemente molto molto in gamba, molto buona con l'antenna, certo che sì. E il collegamento della linea di trasmissione dov'è? Sotto la base o ad altezza intermedia, dov'è? Gli è mancata di nuovo la luce, Giulio. Sì, infatti, sta stavo dicendo, la cosa, l'alimentazione dov'è? Alla base oppure è ad altezza intermedia? Esattamente, guarda, devo prendere il manuale, ma esattamente adesso non ricordo se è a 30 centimetri dal piantone di parificazione o a 50 centimetri, adesso non lo ricordo, in mezzo tra praticamente il direttore e il radiatore, diciamo, chiamiamolo così, lo tiro centrale, in mezzo, e ha la barra di sostegno in acciaio ossidabile con un quadrato bello robusto, isolato, dovrebbe essere teflo o batilite, e all'interno, l'IPL entra sino all'interno, quindi no, è isolato completamente anche dall'acqua, capito? Entra sino all'interno, come tu stai affittando un IPL nel baracchino, la stessa cosa. No, ho capito qua, insomma è stata bene, dai. Sì, no, ma ero convinto, solo dal video che avevo visto mi aveva subito convinto, adesso me lo stai anche tirando e sono ancora più convinto, certo che sì. Avanti Roberto. Ma sai, facciamo riprendere prima quello da muro, so che parcheggio da un po' e poi riprendo io. Scusate, prendo io, mi devo allontanare dalla radio che ho gente a casa. Vi saluto, se coincide era più tardi, dai. Ok, riprendi Antonella, ciao a tutti. Sì, non dimenticate quello che ti ho detto. Cerco, se riesco sì. Ok, se no chiedi a giù nella bassa valle se c'è qualcosa. Devo andarci domani, se tutto va bene. Guarda se c'è qualcosa anche da sistemare, da fare, dai. Vedi un po'. Ciao. Sì, Antonè, ciao tanto Tino, grazie per la chiacchierata, alle prossime, avanti Antonè. Allora questa scena, allora io sono adesso in stand-by con l'ideale e mi stai ascoltando con 5 fatti, dunque alla fine dipenderò dal tuo apparato, giusto? Arrivato a un certo punto, tutta questa difficoltà. Certo che sì, io avevo un baracchino da 3 watt e mezzo, un vintage, proprio un apparato vecchissimo, per cui linea base tra l'altro, che poi a me non mi sono mai piaciuti, comunque va bene lo stesso, lo utilizzo solamente per ascoltarmi in cuffia, per fare la regolazione del microfono di questo che sto usando adesso, solo così lo uso, ma oggi mi si è considerato che non sapevo cosa fare, ma vabbè, adesso l'accendo e vediamo un po'. Funziona sempre comunque, se no ce l'avrò 30 anni, no? Forse anche di più. Va bene così Antonio, non c'è problema, vai. Adesso provo ad alzare, oppure adesso provo ad alzare, e allora dai, dipendeva da possibilmente dal tuo apparato, mi stavo spaventando, porca miseria. Dai, già va bene, già sta funzionando l'antenna, perfetto. Sì, beh, dopo che l'hai sistemata, guarda Antonello, come ti dicevo poc'anzi, stasera, un'ora fa ti dicevo che l'antenna è importante, anche l'apertura delle due braccia, avete considerato che un'antenna così a due braccia a V invertita, no? E quello è anche importante, sicché ti devi attenere alle caratteristiche della ditta che ha costruito anche, quello è importante anche. Avanti ancora Antonio, poi fai girare. No, allora, ripeto, è la stessa azienda che c'ha Claudio, l'avevo scoperta così per caso non è mezzo fa, è già preimpostata, la piastra in acciaio, i fori sono già predisposti, i bracci devi portare in quella posizione lì, dunque c'è poco da girare, l'apertura è già calcolata da loro, e poi solamente un braccio dei due lo allunghi, lo diminuisci per regolare le stazionarie e basta, finito il discorso. Tu lo attacchi con i PL, c'hai due bulloncini, polo caldo e polo freddo, li avviti lì, calza e centrale, li isoli, basta, senza nessun PL, colleghi direttamente così l'antenna. Okay. Sì, no, ma va bene, veramente, con questo ti sento molto meglio, questa è un'altra sensibilità, eccetera. No, ripeto, anche ieri non riuscivo a sentirti nemmeno con questo, era talmente basso che non riuscivo ad ascoltarti nemmeno con questa radio che sto usando adesso, per cui era molto importante il fatto che tu l'abbia modificata la posizione dell'antenna, per cui va bene così. Ok, avanti Gianni lo Buffetta. Ehi, ne approfitto, grazie Mike, ne approfitto per salutarvi perché ora devo... Mi devo congedare da voi, dai. Grazie per la chiacchierata, un salutone circolare a tutta la truppa e ci sentiamo alle prossime. Buona serata e buon proseguimento, ok? Saluti a tutti, ciao ciao. Ok, ciao Gianni, grazie a te per la chiacchierata, dai. Ci sentiamo prossimamente, speriamo molto presto. Avanti Roberto, ci sei? Sì, sì, no, saluto a Gianni, quando vuole c'è sempre ben accetto, dai. Buon tutto e buona carica, quello che comunque cosa devi fare. No, volevo fare una domanda a Claudio di Torre Controllo. Nara, ciao già, un abbraccio e tante cose belle, dimmi Roberto. Allora, mi ha detto un amico Zingaro, se tu il cane lo tieni dentro casa la notte o fuori? No, sempre dentro casa il mio cane si è solo a fare i bisogni e poi si sdraia al sole, ma quando non c'è sole sta sempre dentro, perché? Perché ha detto, deve venire la notte con la moletta per tagliarne l'antenna, perché ha detto che l'antenna va bene, la usano loro nel campo, se c'è il cane si devono organizzare per addormentarlo, per cui può entrare tranquillo la notte con la moletta. Vuol dire che il cane è addormentato, però il padrone c'ha una 9x21 ed è sempre carica. E allora dico a tagliarne un'altra antenna, a parte gli scherzi, dai, facciamo fare i saluti a Rubroffetta, a Muro, se saluto a Rubroffetta, e Ida e Mantonello, e poi chi deve salutare. Ok, va bene, Antonio, d'accordo, siamo qua, fai bianco pure, non è problema. Sì, no, ripeto, Robert, cosa vuoi? Andare con la moletta da Claudio, non so qui, capitina, e vai con qualche altra cosa, ma la moletta è troppo rumorosa, se ne accorge, portati qualche attrezzo che non sia rumoroso, perché sennò non è possibile potergliela portare via, e lui se ne accorgerebbe senz'altro, ci mancherebbe, vero Claudio? Penso proprio di sì, penso proprio di sì. Ma tu conosci Robert, il mio cane è un cane da lecca, diciamo, perché è un cane molto tranquillo, è un cane da appartamento. Io ho 8 anni, l'ho tenuto in un appartamento a Sottovino e Renato. Lui esce quando c'è sole, la giornata è bella, sta fuori, tagliato nell'erba, al sole. Quando invece la giornata come oggi è tutto il giorno tagliato nel suo lettino, non rompe le palle, uscito a fare i suoi bisogni, eccetera. Ma molto probabilmente, a quanto ho sentito mia figlia, quando non c'è più Filippo, c'era più Filippo, vuole portare il pastore del Caucaso, lui gli viene un pochino male, Robert, a entrare, perché quello rimane fuori, quello dentro non entra, perché è un cane proprio che le piace il freddo, ok, è un cane da neve, quindi quello rimane fuori, ed è un cane che pesa 75 kg, le zampe quando le mette dritto, la testa la tira fuori dal cancello che è 2 metri e quasi 30, quindi immaginati tu, puoi dire di venire, problemi non ce ne sono. Vai Claudio. Quel cane la conosco. Bello è. Buonasera a tutti, dai. Quel cane la conosco, non vuole quello lì a avvicinarsi molto. È abbastanza grosso anche. Quello non scherza. Va bene, buonasera a tutti. Claudio, ti volevo chiedere, con l'antenna lì che c'hai tu, dove ce l'hai il registro? C'è il cane da lecca, cane da ciupa ciupa pure. Ma il pastore del Caucaso, quello del mio genere, non è un cane da lecca, perché non fa entrare manca a me a dare la magna, figurati. Proprio una domanda che non ti ho fatto, che mi interessava sapere anche quella che ti ha fatto Francesco Uranio adesso. Ciao Francesco intanto. Per quanto riguarda le stazionarie, come c'è bisogno di accordarla quando la stai montando, oppure la puoi montare direttamente come la Game Master, che non c'è bisogno di fare nessuna accordatura perché è già preparata così dalla ditta? Vai Claudio. Allora, l'antenna arriva tutta smontata, io mi sono messo il manuale tecnico davanti per il montaggio e ho iniziato prima a assemblare il tubo il tubo centrale, diciamo così, sino a metà. Però perché sino a metà? Perché ci sono delle misure da rispettare dove ci vanno le barre in acciaio e vanno a fissare il J-Pol, praticamente l'altro stilo. Quello stilo è tutto dentro, è praticamente un metro, ok? Loro te l'hanno chiuso, tu lo piatti con le due barre di sostegno, ok? E assembli tutta l'antenna e la metti per terra. Io ho un piantone, un piatto in praticamente rotondo con un tubo saldato, ho messo un tubo, l'ho innestata dentro un metro da terra e con la scaletta mi ho allungato il cavo, con la scaletta sono andato a regolare lo stilo, ok? Perché quando io ho provato la prima volta aveva 5 di stazionarie, 5-6 di stazionarie, automaticamente tirando piano piano lo stilo l'ho portato a 1,50 m e ho visto le stazionarie sono scese a 3, poi sono arrivato fino a 2,30 m, 2,25 m, 27 una cosa del genere, le stazionarie sono 1 rapporto a 0, vale dire 0,8 dal canale 1 al canale 80. Ottimo, ottimo, qua quello vuol dire avere la massima resa veramente, quando il valore del rosso è così tra l'1 e 1,1, tu addirittura 1,08, ancora meglio, hai la massima emissione radio, non ci sono dubbi, veramente. Francesco, buonasera, ecco la risposta appunto che tu hai chiesto, ti ho fatto io la domanda e avrai sentito sicuramente quello che ha detto Claudio. Vai Francesco. Sì, ho sentito benissimo. Mi pare che ce l'avrà forse sulla dopo la parte, se ho capito male, o in centro, bisogna regolare da lì, ho capito, si registra da lì l'antenna, ho capito benissimo, dai, perfetto. Ma ho sentito che c'era Barracuda, che era un sacco di tempo senza sentirlo, se c'è ancora, se mi stai sentendo. Buonasera, ben sentito, però in altre occasioni vecchie ti avevo sentito molto meglio, perché mi pare che arrivavi in ombra qua. Adesso, se mi stai ascoltando, sei un po' critico qua, io lo segnalo, vabbè, sta dando un dipolo, dipende anche da quello, va bene Roger, volevo sapere quello lì, Claudio, ok. Mi pare che c'era anche chiuso a Ruggineto, saluto anche a lui e altri che sono mandati in corretti oppure in corretti, non lo so. Vabbè, salutoni a tutti, allora, va bene, riprendi, vediamo un po' se c'è chiodo, mi ero allontanato, io non so più che c'è rimasto qua. Riprendi chiodo, se ci sei. Sì, 5 Stelle, ciao Radio, buonasera, ben sentito, sì, segnale a fondo scala, Radio Super 5, mette arrivando, sì, cordialità anche a te, ben sentito, riprendi. Ok, Roger, io sto facendo una cosa un po' più vasta, sto facendo circa una quindicina di watt, una cosa del genere. Non di più, perché qua non si può, se no qua si rischia di fare qualche dannaccio irriparabile. Va bene, Roger, sì che non cambia questa antenna qua, è un casino. L'altro giorno, via di nuovo a terra, vabbè, pazienza. La passione è quella. Perfetto, avanti Barracuda. Barracuda si è assentato un attimo, le prendo io e poi faccio girare per Roberto e a tutti gli altri. Forse non mi sono spiegato io, Francesco, o non hai capito tu. Sono due antenne, due, non devi regolare niente dallo stilo centrale, sono due antenne accoppiate. Cosa vuol dire? Lo stilo centrale è da 8,50 m, a fianco con due barre in acciaio inossidabile che sostengono l'altro stilo, da stilo a stilo, ok? Da stilo a stilo. Nessun'altra cosa, sono due antenne, una da 8,50 m e quella è quella che irradia. Il direttore dell'antenna è alto, registrato alla perfezione, come l'ho registrato io, 0, Giulio, 0,8, 0,8, non 1 e 1, 0,8, neanche 1 di stazionario. Ok, dal canale 1 al canale 80. Questo stilo, Francesco, aspetta, lo vanno tutto chiuso, che tutto chiuso è circa un metro, va bene? C'è una ghiera nello stilo che poi va praticamente stretta al momento in cui tu regoli. Questo stilo da un metro può diventare sino a 2,50 metri.